Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Liste di attesa in sanità, ancora lontano l'obiettivo di rispettare i tempi 9 volte su 10, ma parametri in miglioramento, dice l'azienda Friuli Centrale. Furti, abusivismo e contraffazione per quasi 2 imprese del terziario su 10, la sicurezza è diminuita. Intenda all'Università di Udine la protesta degli studenti pro-Palestina, l'Ateneo non collabori con Israele. Incidente in A4 ieri sera tra San Giorgio e Latisana, un'auto guidata da cittadini svizzeri è andata a sbattere contro il guardrail, grave il conducente. Mio padre non sarebbe felice di vedere come i malati psichiatrici sono trattati, parla la figlia di Basaglia. 130 studiosi da 16 paesi a Trieste per salvare i rondoni, piccoli uccelli migratori fondamentali per l'ecosistema. 12:31 minuti, buon pomeriggio da Dario Ronzoni e Rita Micoli. L'obiettivo di arrivare al 90% delle prestazioni sanitarie erogate nei tempi previsti dalle priorità resta ancora lontano, ma l'azienda sanitaria Friuli Centrale segnala dei miglioramenti. L'obiettivo nazionale, ovvero il rispetto dei tempi d'attesa nel 90% dei casi, non è quasi mai raggiunto. Talvolta siamo molto lontani. Ciononostante, l'azienda sanitaria Friuli Centrale evidenzia miglioramenti in quasi tutti i tipi di prestazioni. Un netto miglioramento, secondo il direttore generale Caporale, se si considera che vengono raggiunti standard di prestazioni maggiori rispetto al 2019, ma con volumi di attività in aumento rispetto a quell'anno. Il piano d'azione dell'azienda sanitaria si divide in 2 macro settori, ricoveri chirurgici e attività ambulatoriale. È iniziato l'anno scorso grazie a quasi 8 milioni di euro provenienti dalla regione tra il 2023 e il 2024. Tra i ricoveri chirurgici, per i principali interventi oncologici entro i 30 giorni, l'obiettivo del rispetto dei tempi d'attesa nel 90% dei casi è centrato o superato 2 volte su 8 per utero e polmone, ma in generale a fronte di prestazioni in aumento si assiste a un miglioramento del numero di prestazioni erogate in tempo. Una crescita del 31% rispetto al 2023 e del 10% rispetto al 2019. Tra le prestazioni ambulatoriali, nei tempi previsti il 67% nella diagnostica per immagini come ecografie e TAC, lontani dal target del 90%, ma un anno fa la percentuale era del 53%. Prime visite specialistiche, si passa dal 38% di inizio 2023 al 47% di inizio 2024. Più in difficoltà alcune prime visite, come l'ortopedia, ferma al 15% o la gastroenterologia al 24%. Sulla prima visita oncologica, invece, quasi centrato l'obiettivo 90%. Anche per altre tipologie di esami, come colonoscopie, gastroscopie e spirometrie, siamo lontani dalla soglia 90%, ad eccezione dell'elettrocardiogramma. Qui miglioramenti di una percentuale inferiore all'1%, sempre a fronte di maggiori prestazioni erogate. Nel pomeriggio, tutti gli assessori regionali alla salute d'Italia si confronteranno sulle bozze del decreto che il governo si appresta a varare a inizio giugno per abbattere le liste d'attesa. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Furti, usura, aggressioni, vandalismi preoccupano il mondo del commercio regionale, su cui pesa anche l'aumento degli acquisti di merce contraffatta o irregolare. 3 imprese su 4 hanno investito in sicurezza. Sono i risultati di un'indagine di Confcommercio per la giornata nazionale denominata Legalità ci piace. Il consumatore illegale è uomo, soprattutto tra i 18 e i 34 anni, ha in prevalenza un livello di istruzione medio superiore, è impiegato, operaio o studente. L'identikit emerge da un'indagine di Confcommercio su illegalità, contraffazione e abusivismo nel terziario. Quasi il 18% delle imprese del nord-est ha percepito un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2023. Il valore è inferiore al dato Italia, pari al 19%. I furti, l'usura, le aggressioni e violenze, gli atti di vandalismo sono i fenomeni criminali percepiti in maggior aumento. La percentuale dei furti, oltre il 25%, è superiore di 1,5 punti percentuali del valore nazionale. Secondo il presidente di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, Gianluca Madriz, contraffazione, abusivismo, pirateria, estorsioni, usura, infiltrazioni della criminalità organizzata, furti, rapine, taccheggio, corruzione alterano la concorrenza, comportando la perdita di fiducia degli operatori e la diminuzione degli investimenti. strumenti. Il 23,5% dei consumatori del Nord-Est, inoltre, ha acquistato prodotti illegali nel 2023. La quota è leggermente più bassa di quella rilevata a livello nazionale. Di questi, oltre il 70% ha utilizzato canali di vendita online. I prodotti contraffatti più acquistati sono i capi di abbigliamento, le calzature e pelletteria. La maggior parte dell'intrattenimento, quasi il 70%, della musica, film, abbonamenti TV e prodotti di elettronica passano dagli acquisti online. I motivi? Fare un buon affare risparmiando, lo pensa il 72%. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Udine in corso per il secondo giorno la protesta degli studenti pro-Palestina dell'università, una trentina accampati in 15 tende a Palazzo Antonini Cernazzai, intendono restare a oltranza e chiedono che l'università cessi i progetti di collaborazione con Israele e anche con le aziende italiane che producono armi. Gli studenti chiedono all'Ateneo anche l'istituzione di borse di studio per i giovani palestinesi in fuga dal Medio Oriente. È morta a Trieste Antonietta Marucci Vascon, deputata per una legislatura nelle file di Forza Italia. A settembre avrebbe compiuto 88 anni. Nata a Capodistria, fu costretta a lasciare la città finita nella zona B sotto l'amministrazione jugoslava. Fu il padre pescatore ad accompagnarla in barca fino a Trieste. Marucci Vascon ha lavorato a lungo nel settore dell'emittenza televisiva e dei documentari, coltivando nel contempo la passione politica. Fu tra le promotrici del comitato che fondò la Lista per Trieste. Nel 1994 fu eletta nel collegio uninominale della Camera Trieste-Muggia. A Montecitorio assunse l'incarico di segretaria della Commissione Esteri. Terminata l'esperienza parlamentare, è stata presidente del Consiglio provinciale di Trieste. Secondo Assoutenti, un'associazione di consumatori, il mercato libero dell'energia si è rivelato un vero e proprio flop. Ha fatto molto bene chi non ha scelto un gestore nuovo e dal 1 luglio finirà nel mercato a tutele variabili. Sentiamo perché. Il 1 luglio termina il servizio di maggior tutela per l'energia elettrica. 7 utenti su 10 hanno già fatto una scelta sul mercato libero, spesso sollecitati da ripetute e moleste offerte telefoniche. Quanti non scelgono entro il 30 giugno un gestore sul mercato libero, se non appartengono alla categoria dei vulnerabili, passeranno automaticamente nel cosiddetto servizio a tutele graduali. I fornitori sono già stati selezionati attraverso una gara. Saranno ERA in provincia di Udine ed Enel nelle province di Pordenone, Trieste e Gorizia. Secondo Assoutenti, la scelta migliore è quella di non scegliere. Avranno i prezzi migliori del mercato perché grazie anche al meccanismo delle aste, al momento il servizio a tutele graduali è competitivissimo e fa risparmiare oltre 130 euro a questi fortunati che potranno andare nelle tutele graduali. Già ora la differenza tra mercato libero e mercato tutelato è notevole, a dimostrazione, afferma Assoutenti, che il mercato libero è un flop. Prendiamo Udine, 627 euro il mercato di maggior tutela, 681 la migliore offerta del mercato libero. Prendiamo Trieste, più o meno uguale a Udine, anche a Pordenone, anche a Gorizia, il mercato di maggior tutela la spunta la grande. Tornare indietro è ancora possibile, anche se piuttosto complesso. Noi abbiamo chiesto alla politica di trovare un modo più semplice per agevolare chi nel mercato libero preferisce, vedendo come va il mondo, rientrare in maggior tutela o meglio addirittura andare direttamente nel servizio tutele graduali. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: salgono a 4 gli arresti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina effettuati dalla polizia locale di Trieste negli ultimi 10 giorni. L'ultimo in ordine di tempo: venerdì scorso 24 maggio nel tardo pomeriggio il nucleo di polizia giudiziaria, dopo un breve pedinamento, ha intercettato sull'altipiano un veicolo con targa polacca, probabilmente proveniente dalla Slovenia, che trasportava una famiglia di etnia curda senza documenti validi, i genitori e 3 figli, di cui 2 minorenni. Gli operatori sono riusciti a fermare il veicolo polacco in sicurezza senza creare pericolo, nonostante i numerosi passanti. Il presunto passero, un ucraino di 60 anni, è stato arrestato e portato in carcere a disposizione del PM. La famiglia curda era in buone condizioni. Dopo l'identificazione ha presentato richiesta di protezione internazionale. una stanza rosa nella stazione dei carabinieri di Azzano Decimo, un luogo protetto dedicato all'ascolto delle vittime di violenza. Sentiamo. La stazione dei carabinieri di Azzano Decimo da oggi ha una stanza tutta per sé, uno spazio intimo e rassicurante dedicato all'audizione protetta delle donne vittime di violenza. L'iniziativa è realizzata con il Soroptimist Club di Pordenone e il sostegno del comune. È la seconda stanza di questo tipo in Friuli occidentale dopo quella aperta nel 2022 al comando provinciale. Il comandante provinciale dei carabinieri Roberto Spinola. È uno spazio protetto che sarà destinato all'audizione delle donne vittime di violenza e dei minori testimoni di violenza. È stato un percorso un po' travagliato perché è stata necessaria l'intervento dell'amministrazione comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche. In Italia sono in tutto 260 le stanze nate grazie all'accordo fra l'Arma dei Carabinieri e il Soroptimist International. La presidente del Soroptimist Club di Pordenone, Fiorenza Poletto. Vogliamo che le donne non abbiano paura, timore di denunciare e possano trovare un luogo accogliente. Nel sito di Soroptimist troviamo una mappa di tutte le stanze che ci sono in Italia. È un luogo dove la donna può finalmente raccontare in tutta tranquillità quello che ha subito e denunciare, perché una donna deve sapere che noi vogliamo aiutarla. Azzano Decimo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente della strada avvenuto intorno alle 20:30 di ieri lungo l'autostrada 4 tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana. Sull'auto una station wagon con targa svizzera che trascinava un rimorchio vuoto, viaggiavano tre persone. Secondo le prime ricostruzioni il guidatore avrebbe imboccato male un restringimento di carreggiata in corrispondenza di un cantiere, finendo contro il guardrail. Ed è proprio il conducente, un trentenne, ad aver riportato le conseguenze più gravi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare mezz'ora per estrarlo dall'abitacolo. L'uomo ha riportato gravi traumi ed è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Le altre due persone a bordo del mezzo sono rimaste solo lievemente ferite e sono state portate in codice verde all'ospedale di La Tisana. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i carabinieri, oltre al personale sanitario inviato dalla SOS. Viabilità, si prevedono 4 giorni di traffico sostenuto e a tratti molto intenso sulla rete autostradale della regione a partire da domani, giovedì 30 maggio. Ai turisti tedeschi e austriaci che arriveranno in regione per la festa del Corpus Domini si aggiungeranno anche gli spettatori dei concerti di Vasco Rossi a Bibione e di Ultimo a Trieste, entrambi il 2 giugno. Sulla A4 domani bollino giallo in entrambe le direttrici e bollino rosso con code e rallentamenti sulla A23 tra Udine Sud e il nodo di Palmanova. Il 31 nel pomeriggio traffico in aumento sulla A4 in entrambe le direzioni anche a causa del rientro verso l'est Europa degli autotrasportatori, mentre sabato 1 giugno sempre sulla A4 è previsto il bollino giallo in serata agli svincoli di La Tisana e di Portogruaro e bollino giallo è previsto per tutto il giorno anche per domenica 2 giugno. Ancora traffico sull'A23 in direzione Treviso, si registra una coda di circa 1 chilometro poco dopo l'ingresso da Palmanova. I rallentamenti che si concentrano al chilometro 4 sono causati dalle attività di ispezione del cavalcavia che dureranno per tutta la giornata. Ora il meteo, il cielo è sereno sulla costa, da poco nuvoloso a nuvoloso su pianura e montagna, Trieste 22 gradi, mare poco mosso con temperatura di 18 gradi, a Gorizia 23 gradi, a Udine Pordenone 22 e mezzo, a Tolmezzo 19 gradi, a Forni di Sopra 16 gradi e mezzo, a Tarvisio 15 e mezzo, a Sappada 15, sul Piancavallo 12 gradi, sul Monte Zoncolan 10 gradi, sul Lussari 4 gradi e mezzo, sulla costa Lignano 23 gradi, a Grado 22, temperatura del mare 21 gradi. E poi le previsioni, oggi pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile e non si esclude qualche rovescio isolato, domani cielo in prevalenza nuvoloso con piogge da moderate ad abbondanti, anche temporalesche, possibile qualche fase di tempo migliore. Sostenibilità, innovazione tecnologica e valorizzazione della tradizione sono le caratteristiche dell'abitare di domani e quanto emerge dal libro Breve storia sui futuri della casa di Fabio Millevoi, direttore di ANCE Friuli Venezia Giulia, che presenterà questo pomeriggio alle 18 nella Torre di Santa Maria, sede della vetrina dell'ingegno di Confindustria Udine. L'evento è gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili. Iscrizioni aperte sul sito di Confindustria Udine. Al telefono abbiamo raggiunto l'autore, che ha detto: di mestiere faccio soprattutto il futurista. Futurista è il professionista che lavora con i futuri. Futuri rigorosamente al plurale, però noi oggi con dei metodi possiamo immaginare un ventaglio di ipotesi che andremo a visualizzare contestualizzandoli in alcuni scenari, uno positivo, uno negativo, due positivi, due negativi. A questo punto noi abbiamo creato i futuri, ma se li abbiamo creati li vediamo, e se li vediamo li possiamo usare come uno strumento per modificare il nostro presente e porre in essere quelle azioni che ci potranno portare verso quel futuro desiderabile, piuttosto che andarci a schiantare contro un muro. Un tempo si dava molta importanza al mattone, ora per i giovani è sempre più dura comprare casa, specie nelle grandi città, ma la casa ha la stessa importanza di un tempo ancora oggi? È un bisogno che deve essere soddisfatto. Per alcuni la casa è una questione di luce, per altri di metri quadrati, per altri di classe di efficientamento energetico. Per me la casa è una cellula di un organismo vivente che è la città. E quindi interrogarsi sulla casa significa interrogarsi sulla città, e interrogarsi sulla città significa chiedersi: la città è ancora in grado di costruire cultura? È ancora in grado di rispondere alle sfide che abbiamo all'orizzonte, in modo particolare a quella climatica e a quella legata all'automazione del lavoro? E quindi potremmo dire che le case che nel futuro andremo a costruire dipenderanno dall'idea di città, di società, ma soprattutto di vita che le ispireranno. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E si interroga sempre sul futuro delle nostre città l'evento che si tiene oggi alle 18 a Pordenone, alla Servizi CGN Società Benefit, dal titolo Cambiamento che parte dalle città. Un viaggio nel futuro delle città concentrandosi sul tema del verde urbano. Si parlerà di come integrare in modo armonioso spazi verdi nelle infrastrutture esistenti, riconoscendo l'importanza cruciale della partecipazione attiva dei cittadini. Tra i relatori Riccardo Rizzetto, dottore forestale, che da anni si occupa di raccontare il verde urbano sui social network e attraverso attività didattiche. Un incontro nella chiesa della parrocchia Beata Vergine Addolorata di Valmaura a Trieste questa sera alle 20. L'ex calciatore Damiano Tommasi, attuale sindaco di Verona, parlerà di passione educativa per il futuro della città. Incontro moderato da Anna Maria Rondini, presidente dell'Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori di Trieste. E a Trieste, al Circolo della Stampa, alle 17.30 sarà presentato il libro Le Nuvole di Picasso, ristampato da Feltrinelli in un'edizione arricchita da 3 nuovi capitoli. All'incontro saranno presenti le autrici Alberta Basaglia e Giulietta Raccanelli. Mio padre non sarebbe felice di vedere come i malati psichiatrici vengono trattati ancora oggi, ma anche come vengono lasciate sole le persone più fragili e gli esclusi. Così ha detto Alberta Basaglia al nostro giornale radio, figlia del celebre psichiatra di cui quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. L'abbiamo raggiunta al telefono. Sentiamo. Mi piace anche partecipare a questi incontri, perché mi sembra come di ricordare una storia che è bene tener presente nel presente. Lei, Alberta, è stata testimone di tutto il fermento che ha accompagnato la rivoluzione basagliana. Beh, sì, sono stata testimone, nel senso che ci ho vissuto accanto da bambina, da ragazzina e anche da ragazza adulta. Che cosa ricorda di quei momenti? Ricordo di essere stata accanto e dentro una situazione che all'inizio non mi sembrava la vita normale di una famiglia, e poi un po' alla volta ho capito che ero invece dentro a una realtà che stava spostando il mondo che lo circondava. Cosa direbbe secondo lei suo padre oggi rispetto a quello che vediamo, come vengono trattate le persone con malattie psichiatriche? Sono certa che non sarebbe soddisfatto di come stanno andando le cose adesso e di come potrebbero invece andare solo se si volesse fare un po' più di attenzione a chi ha problemi legati alla salute mentale, ma anche a tante altre situazioni di emarginazione che ci sono adesso nel nostro paese. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Da oggi a venerdì oltre 130 studiosi da 16 paesi sono al Teatro Miela di Trieste per il 7° congresso internazionale dei rondoni, un confronto su come tutelare questa straordinaria specie di piccoli uccelli migratori minacciata da cambiamenti climatici ed eventi estremi, dei veri re dei cieli che passano la loro vita in volo. Da noi possiamo vederli in primavera ed estate, poi migrano in Africa. Sono chiamati gli acrobati dell'aria, trascorrono la loro vita quasi interamente in volo, si posano sotto i nostri tetti solo quando devono nidificare, scegliendo quasi sempre lo stesso nido. Sono i rondoni, piccoli uccelli migratori della famiglia degli apodidi, che attraversano i cieli italiani e di quasi tutta Europa, fino al Medio Oriente e in parte dell'Asia, dalla primavera a fine estate, prima di iniziare il loro lungo viaggio di ritorno nell'Africa subsahariana per svernare. A Trieste, al Teatro Miela, dal 29 al 31 maggio, si sono dati appuntamento i maggiori esperti al mondo di questa specie per la 7ª conferenza internazionale dei rondoni, l'organizzazione dell'Associazione Liberi di Volare di Trieste, la presidente Silvana Di Mauro. In tutta la sua vita percorre quasi 7 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Immaginate in un anno quanti chilometri, oltre 200.000 chilometri, e per tornare ai nostri nidi di riproduzione compie ogni anno qualcosa come 20.000 chilometri dall'Africa. La popolazione globale, stimata attorno al centinaio di milioni di individui, sta vivendo un forte decremento a causa dei cambiamenti climatici, desertificazione, ristrutturazioni ed eventi estremi. Come è fatto il vostro centro? Abbiamo un corpo centrale dove noi attiviamo la stabulazione del rondone, ma abbiamo anche una palestra di volo, perché senza questa camera della riabilitazione molti di loro non potrebbero tornare a volare, soprattutto quando hanno avuto problemi strutturali. Trieste, Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. La rassegna Allo specchio dell'era Kennedy, realizzata dalla Cineteca del Friuli al Cinema Sociale di Gemona, in parallelo alla mostra omonima al Castello di Gemona, sposta l'attenzione su Robert Kennedy, il fratello di John Fitzgerald, che non raggiungerà la presidenza, colpito da un attentato durante la sua campagna nelle primarie il 5 giugno del 68 e deceduto il giorno successivo. Alle 20.30 al Sociale, introdotto dal curatore della mostra e dalla rassegna Sergio Germec Germani, sarà proiettato un raro film televisivo italiano prodotto dalla RAI poco dopo l'assassinio e programmato nel 70 e mai più replicato, Bob Kennedy contro Jimmy Hoffa di Alberto Negrine, con un giovanissimo Giancarlo Giannini, grazie a Rai Te, che sarà la prima proiezione assoluta in sala su grande schermo. La danza verso Oze, il titolo della ricerca avviata dalla compagnia di danza contemporanea Area Dialoghi, residenze delle arti performative a Villa Manini, il progetto a cura del CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. La residenza apre al pubblico oggi alle 18, inserendosi tra le attività di Terza Terra, Michelangelo Pistoletto e Città dell'Arte, la mostra allestita a cura di Erpac. La danzatrice e coreografa Marta Bevilacqua sta lavorando con i ballerini sul tema della luce. L'ingresso alla dimostrazione verso Oz è libero, con prenotazione consigliata, all'indirizzo residenze Villa Manin @cssudine.it. Posti in piedi o sul prato, si consiglia di portare cuscini o coperte. Pierluigi Porazzi e Claudio Chiaverotti, quest'ultimo in collegamento video, presenteranno il loro romanzo Il re delle fate d'autunno alle 18 alla libreria Ubic in Galleria Tergesteo a Trieste. Porazzi, giallista, autore di diversi thriller, e Chiaverotti, fumettista e creatore di oltre 50 storie di Dylan Dog, hanno scritto insieme un giallo ambientato in un piccolo borgo del Friuli, con un serial killer che semina terrore e vittime nello sperduto paesino immaginario di Dolcezza. E anche quest'anno la Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste aderisce alla campagna nazionale Il Maggio dei Libri. Oggi proporrà 2 appuntamenti nella sala incontri di Via dei Tomins, dal titolo La collezione algologica del Museo di Storia Naturale, conoscere i libri e i reperti, il primo alle 15, il secondo alle 17. Lo sport e la Triestina ha ufficializzato che non sarà rinnovato il contratto dell'allenatore della prima squadra di calcio Roberto Bordine, in scadenza il prossimo 30 giugno. Arrivato a febbraio del 2024, Bordine ha chiuso la stagione regolare al quarto posto, raggiungendo gli ottavi di finale play-off. E ricordiamo un appuntamento con il basket nei playoff del basket femminile di A2. Oggi Women Up, Udine deve vincere gara 2 in trasferta a Verona per restare nella corsa promozione alla massima serie. Le venete avevano sconfitto le friulane in gara 1 per 85-75, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Andrea Fontano, Tevasia Crisman, Ciccine segreteria, ha collaborato Cristina Polselli, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.